vengo dal meridione, la Puglia è il posto più bello della nazione, fiero del tuo appellativo, chiamami Terrone, per le teste di cazzo che hanno perso la nozione, emigrato dallo Sperone per la precisione, il sole, le spiagge, il cibo, quello che cercate, in Terronia ce l'abbiamo sempre, non solo d'estate, più tutto il resto che nella nebbia non trovate, venite a prendervi lassù e pagate, ce la rate, accoglienza, sorrisi e gentilezza, il sud è anche questo, oltre la mafia e la monnezza, zero paragone, la mia gente è di tutt'altra pasta, orgoglioso d'essere Terrone, e se lasciamo tutto questo è perché non c'è lavoro, grazie a chi ci governa, senza decoro, a chi ci fa lasciare il sole e il mare, ma col cazzo che dimentichiamo le cose da mare. Chiamami Terrone, chiamami Terrone, sì. Chiamami Terrone, chiamami Terrone, sì. Ti do questa notizia in conclusione, il mio cognome è sinonimo di Terrone, sì. Chiamami Terrone, chiamami Terrone, sì. Chiamami Terrone, chiamami Terrone, sì. Ti do questa notizia in conclusione, il mio cognome è sinonimo di Terrone. Cosa pensate che non mi manchi la mia terra? Qui vi surriscaldate tutti come l'effetto serra, nostalgia di Foggia e della famiglia, prendo parto, andate e ritorno, più di 1000 miglia, ho camminato col fango alle caviglie, ora corro a piedi nudi per raccogliere conchiglie, attraversare vicoli col sole sulla faccia, la ricerca degli amici di chi ho perso qualsiasi traccia, ritrovo le radici della lingua e il mio dialetto, come quelle di una quercia, sono in viale Giotto, quando ritorno a casa rivedo la mia rabbia, qui è più facile essere felici, qualsiasi cosa abbia, tutto è più accessibile, è tutto più Terrone, cambio carattere, più solare, mi sento il padrone, qui il cuore pulsa forte, brama di passione, a voi dir giuro che è quello di un Terrone. Chiamami Terrone, chiamami Terrone, sì. Chiamami Terrone, chiamami Terrone, sì. Ti do questa notizia in conclusione, il mio cognome è sinonimo di Terrone, sì. Chiamami Terrone, chiamami Terrone, sì. Chiamami Terrone, chiamami Terrone, sì. Ti do questa notizia in conclusione, il mio cognome è sinonimo di Terrone, sì.